Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Carissimi amici di Runtime Radio, se non l'aveste capito, eventualmente vi fosse sfuggito per qualche ragione, siamo su runtimeradio.it, la radio geek, sempre più live, sempre più radio, qui questa sera in un nuovo appuntamento con Quando eravamo futuro. No, ve lo dico perché se tutti gli spot che mi hanno preceduto, che ovviamente sono in ordine prefissata ma casuale allo stesso tempo, non vi avessero chiarito l'idea, insomma questa è Runtime Radio e potete di andare tranquillamente sul nostro sito www.runtimeradio.it, non soltanto per cliccare sul player e ascoltare la puntata, ma anche per andare sul tastino anche io e contribuire al nostro progetto, ovviamente una tantum tramite PayPal se volete, oppure ricorrentemente su Patreon se volete supportare il nostro progetto, che come sapete oramai da anni vi fa compagnia, lo fa a titolo gratuito e amatoriale, ma allo stesso tempo insomma con grosso dispendio di impegno. Se riconoscete insomma a noi questo impegno, ci fa piacere, insomma, se ovviamente volete anche contribuire, insomma questo ci fa sicuramente piacere. Io sono Simone Pizzi, con me c'è chiaramente Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti. Scusate se stasera sentirete la mia voce leggermente nasale, ma dall'oltre zumba. Esatto, come tutti gli anni inizia la primavera e arrivano i dannati pollini. Ma fottuti, maledetti pollini. La natura, ma chi l'ha inventata? Esatto. Maledetta. Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, buonasera. Cosa fai, i gargarismi? Più stupido del solito, perché anch'io ho avuto l'influenza, quindi... Ah ok, e ti ha colpito al cervello l'influenza? Mi ha colpito soprattutto al cervello, e soprattutto, come diceva prima Simone, se non avete capito che siete su Runtime Radio, più che altro non vi dico dove dovete andare, ma... Esatto, se non avete capito c'è un problema, diciamocelo, perché insomma... Davide Gatti... Cicu, eccomi. Io che ho sempre detto Cicu, senza sapere per quale motivo. Adesso oggi ho scoperto per quale motivo. Comunque buonasera. Dopo ce lo spieghi. Sì. Buonasera Davide, ti ho presentato per ultimo perché c'è una persona anche oggi, un ospite, e tu ieri mi scrivevi c'è un amico mio che vuole partecipare. Dai, presentalo. Allora, un amico mio, senza sapere che io e lui già insomma c'eravamo presentiti, confabulavate alle mie spalle. No, confabulavate no, però insomma vabbè, vai. No, comunque va bene, presento il mio amico Andrea Trevisan, che mi segue sul canale YouTube da quando esiste e che condividiamo ormai ogni giorno tutte le nostre cose, ci parliamo tutti i giorni di tutti i nostri affari. È saltato fuori che lui stasera è veramente in focus e in tema di quello che dobbiamo parlare, e quindi ho detto ciao, portiamolo e vediamo un po' di sentire in maniera un po' anche simpatica un po' di cose di cui io invece sono un po' digiuno, tra l'altro. Bene. Di che cosa quindi parleremo stasera? Aspetta, intanto salutiamo allora Andrea Trevisan, benvenuto. Sì, ciao Simone, ciao, salve a tutti. Oh, io non sapevo, non mi avete detto il dress code, per cui ho messo il pigiama delle grandi occasioni. Hai fatto bene. Sì, ho detto non so mai. Sì, sì, ovviamente io ho avuto la mia esperienza anch'io con le radio, col CB, anche un po' di esperienza da radiomotore. Bene, bene, infatti questo sarà un po' il tema della puntata, però ragazzi permettetemi, perché questa puntata, questa volta, sì, è una puntata... diciamo a sfondo esperienziale sicuramente, ma anche da un punto di vista leggermente tecnico, perché parleremo di strumenti che hanno poi permesso a noi di fare delle cose, determinate esperienze. Però contrariamente da quello che uno possa immaginare, questa storia inizia in una maniera strana, inizia con un percorso che mi ha portato a conoscere determinate cose, ed è un percorso esoterico, misterioso, oserei dire paranormale, perché un giorno a casa mia con i miei genitori che erano in vacanza, e quindi c'era mia nonna che ci faceva compagnia, a me e mio fratello, ci accudiva, ci sistemava. Un giorno mia nonna è venuta da me tutta allarmata e ha detto: Simone, Simone, vieni di là, devi sentire. Cosa nonna, cosa? Mi parlano dalla televisione. E tu, quando uno ti dice mi parlano dalla televisione, pensi a Poltergeist, alla mano che acchiappa la bambina, no? Immagini un'entità extradimensionale che è lì e ti dice: cazzo, sono qui dall'altra parte, questo schermo è la cosa che separa il mio mondo dal tuo mondo. E allora sono andato a vedere, e anche su un canale dove non c'era un canale, perché allora insomma tu mettevi su un canale dove non c'era un canale e c'era tutto il rumore di fondo, si sentiva questa voce, sentiva questa persona che parlava e diceva cose strane. Mia nonna dice: non capisco il messaggio, cosa mi vuole dire il fantasma dall'altro mondo? E diceva queste cose strane, diceva dei numeri, diceva delle parole così a caso. E alla fine abbiamo scoperto, cara nonna, che ti ho voluto bene, non era il fantasma che voleva parlare con te, mi dispiace. E ovviamente sono partite quattro tracce insieme, perché quando il mixer c'ha 50 pulsanti tutti colorati li vorresti spingere tutti. Insomma, va bene, questa storia che è un po' strana, che vi può sembrare un po' strana, in realtà è la verità. Perché all'epoca è una grande verità. È una grande verità, perché all'epoca, quando è nata la grande passione, cioè non c'è stato il boom, no, della banda cittadina, dei baracchini, no, noi chiamavamo i baracchini, ma si chiamava CB, no? La Citizen Band, quindi e i radioamatori che avevano degli strumenti ancora più potenti, da un certo punto di vista, e insomma tutte queste cose, che non esistevano ancora dei filtri tecnologici per impedire che le cose entrassero in altre cose, quindi tu sentivi parlare i citofoni, tu dici vabbè, normale, citofonavi. In realtà no, perché dal citofono parlavano persone che non dovevano parlare, e giustamente magari le persone un po' più suggestionabili potevano pensare che c'era qualcosa dentro al citofono, o se fosse stato possibile anche dal forno sarebbe stato divertente, ma in realtà tutto ciò che aveva la possibilità di emettere un suono spesso e volentieri emetteva dei suoni a sbafo, insomma diciamo random, di persone che parlavano all'isolato accanto oppure direttamente nel vostro palazzo con le loro antenne, con i loro baracchini, che hanno fatto la storia di un certo periodo di tempo. Ci sono affezionato a questa puntata, si sono affezionato egualmente alla, come alla puntata ovviamente delle radio pirata che poi sono diventate le radio libere, ma in particolare questo, perché il CB, in un momento importante della mia vita, un momento anche triste volendo, però che poi è diventato anche bello a modo suo, ha fatto parte della mia esistenza, una di quelle tante esperienze intense, anche se brevi, che io ho fatto, perché io ne ho fatte tante di esperienze, tutte intense e tutte molto brevi, e non pensate male, chiaramente. Quindi insomma siamo qui per parlare di questo. Insomma, Davide, tu, ti è capitato di sentire i citofoni che parlano da soli? Cavoli, citofoni, TV, radio. Anche perché nel mio palazzo, che io abitavo in un grosso edificio con 14 piani e 6 scale in un unico palazzo, né? Quindi dentro il minimo c'erano, che ne so, 20, 30, in un certo periodo potevano esserci anche 50 radioamatori. E poi sapete che tra i radioamatori c'era la lotta a chi ce l'aveva più grosso, l'amplificatore, il finale, l'antenna, il microfono, tutto. Scherzi. E allora succedeva che delle volte io mi ritrovavo l'antenna sul tetto, un'antenna che era 5 volte più grossa dell'antenna della TV, e quello, quando schiacciava il pulsante, non c'era di santi, cioè arrivava dappertutto, poi chi abitava lì vicino. Comunque citofoni li ho sentiti tranquillamente, abbiamo sentito la TV, abbiamo sentito la radio, ed era un problema comune a tanti. Quando io lavoravo in negozio, molti venivano a chiedermi se c'era qualche filtro, qualche cosa. Hai detto: no, guarda, i filtri li deve mettere chi trasmette, tu che li ricevi, c'è poco da filtrare. Sì. Citofono. No, in realtà, anche se poi dopo alla fine le apparecchiature con gli anni sono state anche schermate, no, da altre interferenze, soprattutto oggi che di interferenze ce ne sarebbero 50 volte di più, no? Però la cosa divertente, sì, è che ovviamente, come tu ricevevi il fastidio degli altri, c'era poi dopo questa cosa, questa informazione quando si era sparsa, se vedevano un'antenna anomala sul palazzo, sul balcone di qualcuno, ti venivano subito a rompere i coglioni, dicevano io non vedo più la televisione. Che è colpa di quello lì. Che non c'entrava un cazzo, però, cioè, però non va più la lavatrice, è colpa di quella. Lui si accendono più le lampadine in bagno, queste cose così. No? Perché questa era un po' la nostra cultura degli anni 70 e 80, no? Cioè, prima succedevano le cose perché non lo sapevi, quando lo sapevi, se vedevi una cosa anomala era il nemico, cioè nel senso era un po' così, insomma, Andrea. Non so te. Era il dramma di tutti noi. Io ricordo che avevo una stazioncina radio anche, diciamo, nel condominio dove stava mia nonna, ed erano tutti disperati perché io ogni volta che usavo, avevo una mantova come antenna, quell'antenna a stilo, no? Però era proprio a fianco all'antenna della TV, quindi quando parlavo entravo un po' nelle TV di tutti. La cosa drammatica è che ho commesso la mia prima truffa, che confesso in diretta. Perché a quell'epoca avevo 12 anni, credo più o meno, mia nonna, che era disperata perché la fermavano tutti, no signora, suo nipote entra dappertutto, eh? Io gli dissi: nonna, compriamo questo, perché se compri questo vedrai che non mi sentono più. Gliel'ho spacciato per un filtro, ma era un amplificatore valvolare a 100 watt. Il disturbo diventava 100 volte di più. Che poi l'amplificatore a 100 watt non è che costava proprio poco, insomma. No, è costato un botto. E tra l'altro non entravo più con l'audio, scompariva l'immagine. Esatto. Succhiava via le energie. Allora, intanto ragazzi, salutiamo tutte le persone che vedo, insomma, numerose in chat, mi fa molto piacere. Salutiamo Gianluca, salutiamo Filimberto, Walter Sbano, ovviamente Vincenzo non poteva giustamente mancare, Michela De Paola, e appena entrata in chat una certa Adele. Ora vedremo se è un bot o se invece è una persona, insomma, vera. Che penso di sapere chi è Adele, io invece. Ah sì? Sì, è un uomo o una donna? Perché sai, c'è una... È una donna, è probabilmente la moglie di Andrea. Ah, ok, perfetto, a posto. Vabbè, quindi ci fa piacere. Insomma, vedo che c'è non già. Non posso né confermare né smentire. Né smentire, esatto. Allora, dicevamo, di che cosa parliamo? Parliamo praticamente nell'epoca in cui sono entrati gli hi-fi dentro casa, le televisioni a colori, e appunto sono nate le prime radio, insomma, che cominciavano a trasmettere. C'erano questi apparecchietti, queste radio ricetrasmittenti, che permettevano alle persone di parlare con altre persone. Che detto così può sembrare banale, ma in un'epoca in cui in realtà c'era questo desiderio, no, di andare oltre quelle che erano le tue potenzialità, no? Lo dicevamo anche la scorsa settimana, se tu magari eri lì in radio di notte e trasmettevi e parlavi, quindi pensavi alla tua voce che si propagava nell'etere e pensavi che magari c'erano anche cinque, solo tre o cinque persone che ti ascoltavano, era comunque straaffascinante, era già al di fuori della nostra concezione, no? In un'epoca in cui per comunicare con gli altri esisteva soltanto fondamentalmente il telefono. E queste radio ricetrasmittenti ci permettevano di non solo parlare e basta, ma di avere una comunicazione con le altre persone, una comunicazione asincrona naturalmente, che però allo stesso tempo aveva il suo fascino, che in maniera analoga alle chat per certi versi ci ha permesso, esatto, di cominciare a conoscere le persone, di immaginarsi il mistero delle persone, no? Perché c'era pure questa cosa, no, che tu con la voce cercavi di essere affascinante e di essere misterioso, e la stessa cosa succedeva un po' nelle chat, soltanto che la voce, secondo me, c'aveva sempre un qualcosa di più affascinante. Soprattutto la voce, sì, ti può far immaginare esteticamente com'è una persona, però tendenzialmente è più difficile da ingannare le persone con la voce, perché la voce non mente poi, no? Soprattutto se c'è questo contatto diretto proprio con lo spirito di quello che tu dici, cioè la voce. Ecco, insomma, volevo sapere da voi, partendo da Carlo, che tipo di contatto, perché io penso che un po' tutti ci abbiamo avuto almeno un contatto con questi strumenti, e poi espandiamo un po' il discorso cercando di capire anche come erano fatti, come funzionavano e quelli che erano poi i vari gradi, insomma, perché c'era, insomma, il CB, poi c'erano i radioamatori che erano quelli seri, no? Cioè, insomma, li facevano, e c'erano quelli che c'erano il CB che andavano nelle bande dei radioamatori e non ci dovevano andare, insomma, poi c'era tutta una combriccola. Vai Carlo, iniziamo da te. Eccomi qua. Allora, sì, ho già avuto modo di raccontarlo, credo, in un'altra puntata, che anch'io ho avuto un CD, no? come tanti, anche perché diciamo che tra fine degli anni 70 e gli anni 80 comunque era una cosa abbastanza popolare, soprattutto anche precedentemente, direi dalla fine degli anni 60 in poi credo che sia stato uno degli hobby, non dico tra i più popolari in Italia, ma sicuramente era una cosa abbastanza comune, insomma, trovare appassionati di CB e vedere magari fuori dalle case quelle gigantesche antenne, come si diceva prima, che quando ne vedevi una diceva: ecco, quello è un radioamatore, disturba la televisione di tutti quanti del vicinato. Per quanto mi riguarda, l'appassionatissimo era in realtà il cugino di mio padre. Allora, che poi sai, all'epoca i parenti tra cugini era diverso, che il cugino di mio padre doveva essere per me un cugino di secondo grado, ma io lo chiamavo zio, perché alla fine era l'età quella che contava. Non so se questo è capitato anche a voi, ma penso sia abbastanza normale. Cioè, era il cugino di mio padre, io lo chiamavo zio, e suo figlio lo chiamavo cugino, anche se in realtà erano tutti cugini di secondo e di terzo grado. Dopo il cugino perdo il controllo, non so più esatto. Chi sono, tutti cugini. Il figlio della sorella di mio nonno. Già, basta. Lui comincia già sul secondo livello e già fa la fine per me, i miei ingranaggi girano. Vabbè, comunque erano parenti, poi abitavamo vicino, quindi lo chiamavo zio, e l'altro cugino, Diego. Bella zio, chiamavi giusto. Bella zio, bella lui era super appassionato era un radioamatore vero e proprio, quindi col patentino, perché ecco, c'è da dire questa differenza che probabilmente il pubblico non sa o non conosce, che in realtà il CB è la, come già detto giustamente Simone, la Citizen Band, cioè la banda civica, pubblica, libera, quella che si può usare senza nessun tipo di restrizione o di qualsiasi tipo di permesso, mentre i radioamatori utilizzano altre bande in quali, in teoria, per poterle utilizzare, almeno all'epoca, dovevi fare il cosiddetto patentino. Adesso non sono più aggiornato sulla legislazione attuale, però all'epoca bisognava fare una specie di patentino e avere l'autorizzazione, insomma, a operare su determinate bande, quindi diventavi radioamatore, quindi trasmettevi su bande, su altri tipi di bande che non erano quelle delle bande CB, delle Citizen Band libere. E lui quindi era radioamatore, però tutti parlavano su CB perché era quella dove trovavi più gente, insomma, quella dove c'erano le cose più divertenti, e quindi mi dice: comprati questo qua, il CB, prendo un usato, credo che gli avessi tipo 50.000 lire, anche perché secondo me nella banda cittadina la gente era più scialla, era meno protocollare, sì. No? Mentre magari il radioamatore ci teneva di più, insomma, ad avere magari una certa impostazione e va bene, e via dicendo, insomma, sì, comunque di solito li compravi usati, perché a un certo punto quando ti veniva l'interesse per questa cosa, improvvisamente sbucavano fuori centinaia di persone che avevano il baracchino usato da venderti improvvisamente. Esatto. Tant'è che io me lo fece vedere un mio amico, dice: guarda, c'è questa cosa, ci passammo una mezza nottata a casa sua a giocarellarci un pochino, e tempo due giorni ce l'avevo pure io, insomma, cioè, quindi... Vabbè, comunque questo mio cugino Diego Pellacani, che era il figlio del cugino di mio padre, viva la privacy comunque giovani. Anche un po', cioè. Vabbè, Diego, anzi, che è contento se lo nomino, figurati, anche perché poi vabbè, potrei dire delle altre cose su Diego che sono divertenti. No, non più, c'è tanto, ormai è tutto in prescrizione, figurati. Okay. Tanto in chat stanno a parlare dei cazzi loro, cioè, vi dico solo questo. Mio cugino Diego si chiamava soprannome Diegoz, perché Diegoz in milanese, diciamo un po' dialettale tra ragazzi, quindi Diegoz è diventato famoso come Oz, perché adesso questa, magari chi ha una certa età e smanettava un po' con l'elettronica, si ricorderà sicuramente un qualcosa firmato da un certo Oz e Boobs, che si chiamava Multipippo. Purca. Non mi ricordavo chi l'avesse inventato, ma Multipippo, certo che me lo Multipippo ricordo. Di Multipippo di Oz e Boobs. Ecco, Oz è mio cugino. Il cugino comunque tutto in prescrizione. Stiamo tutto parlando prescrizione, di tessere, dai. Sky, no, tessere Telepiù, tarocche, Telepiù, esatto, dell'epoca. Vabbè, comunque questo era giusto per dire chi era quello che mi ha venduto il primo. Vabbè, cibo. Ma non ce frega niente, rimani in focus, dai, già la puntata è lunga. Vabbè. E quindi abbiamo iniziato un pochino a parlare, ma durata poco, perché io francamente non mi sono appassionato molto del sistema. Sì, era divertente, sentivi un po' di gente in quel brecco brecco, ma io non riuscivo comunque a appassionarmi allo strumento e alle modalità di utilizzo, anche perché in realtà io ero già telematico, ero già entrato nel mondo della telematica, quindi diciamo ero già alla fase 2 di quelli che iniziano a che poi è successo a molti di quelli che smanettavano col CB eccetera, poi di diventare i primi che chattavano nelle primissime BBS dell'epoca. Sì, lo diceva prima chat, Simone. E quindi io ero già in quella fase lì, mi ero autocostruito il mio modem 1275 in kit e mi collegavo alle BBS dell'epoca che c'erano, erano allora le primissime BBS, quindi già subito ero più appassionato di altro, insomma, che del CB. Ecco, una cosa che ho provato è stata la trasmissione di programmi per lo Spectrum, ovviamente via CB. Era una cosa che ho provato proprio con mio cugino. Packet radio. Esatto, il packet radio. Sì, ma lui vuol dire ha piantato il microfono sull'altoparlante del registratore. Sì, praticamente sì, all'epoca trattavasi di quello. Tanto lo facevano già le radio normali, figurate se uno poteva col CB. Anche se penso che la qualità, insomma, di una portante a lunga distanza del CB, insomma, penso che... Sì, ma... Tanto lo Spectrum mangiava qualsiasi cosa. Ah, ok, se tu glielo facevi con la voce era uguale. Più o meno. Sei bravo, allenato, sì. Sì, esatto. Riuscivi a ingannare, qualcosa faceva. Queste, diciamo, le mie prime sperimentazioni, insomma, in questo campo. Però presto abbandonato, ecco, non è stata una delle mie passioni. Ah, ok, continue. Roberto? Allora, anch'io ho fatto praticamente un mix di tutte le cose che avete raccontato. La mia prima esperienza con il baracchino, diciamo così, è in Inghilterra. Io ho uno zio in Inghilterra che, buon per lui, ha avuto un certo successo, quindi comprava qualsiasi cosa costosa elettronica. E la parte buona per me è che molte di queste cose, quando si scocciava o uscivano più costose, me le regalava. Sì, una cosa carina. Quindi che cosa successe? La prima volta che l'ho usato era in Inghilterra, dove lui si era lui all'epoca aveva una villa abbastanza grande, si era costruito una torre, una roba pazzesca, con sopra un'antenna quadra enorme, quasi più grande del tetto della casa, tant'è vero che i vicini lo hanno denunciato alla postale inglese. Mi ricordo che ero lì quando arrivarono questi col camioncino, 300 persone, mia zia inglese che si vergognava come una ladra e mio zio bravo italiano che assolutamente non gliene fregava niente, li ha buttati fuori casa, una cosa giustamente. E queste sono le prime cose. Quindi lui mi regalò le cose vecchie che aveva con un Midland. Io ho avuto subito l'amplificatore da 100 watt e una bella antenna abbastanza grande. La cosa buffa è che io ho montato tutto in camera mia all'interno di un appartamento in un condominio, compresa l'antenna, che chiaramente non c'entrava, quindi l'ho inclinata perché non potevo metterla dritta. E insomma, non ho potete facilmente immaginare il risultato sulle televisioni di tutto non solo il palazzo, ma anche il condominio, che era anche abbastanza grande, quindi con insulti vari da parte di chiunque. Ma se non vedevano l'antenna, come facevano a sapere che eri tu? Sentivano la voce. Perché mi sentivano. Ah, ti hanno riconosciuto, devi falsificare. Sì, devo fare fantocci a lei, sì, cioè, esatto. Non ci avevo pensato. Poi però devo dire che un po' perché io mi scoccio facilmente, un po' perché comunque vale anche per me che la telematica era molto più, l'ho sempre trovata, cioè, o meglio, l'ho trovata molto più divertente. È una cosa che ho fatto per un mese, poi l'ho messo via, poi dopo circa 2 anni l'ho ritirato fuori per un altro mese, poi l'ho messo via e adesso non so nemmeno, è da qualche parte, da qualche parte a casa. Però è un ricordo bello. E quindi ce l'hai ancora, una cosa invece volendo, che ho fatto per lungo tempo è mi comprai i libri famosi dell'ARI per prendere il patentino, che in realtà non ho mai preso, non ho mai fatto l'esame, però c'erano dei libri veramente belli che parlavano di fisica, elettromagnetismo e tutte queste cose che sono cose veramente belle, quindi questo mi è rimasto. Più o meno questo è la... Bene, allora... Ti è rimasta la parte buona, insomma, dai. La parte buona, se vogliamo. Però se ce l'hai ancora, tienilo, magari me lo compro io. Comunque, sentiamo no, invece ce l'ho. Il nostro ospite, che invece... qual è stato il tuo approccio? Cioè il tuo primo contatto, diciamo? Non direttamente il tuo utilizzo, io dico proprio il primo contatto. No, il primo contatto è stato come sai sicuramente dovuto al fatto che lo usavamo in camper, no? Quindi la famosa barra mobile. E quindi barra mobile, e noi lo usavamo molto in camper perché con questo passato di camperisti che abbiamo girato un po' in tutta Europa e Africa, e quindi le carovane quando si spostavano non c'erano i cellulari, si parlava usando ovviamente il CB, ed era anche un mezzo di informazione molto utile perché c'erano i camionisti, i famosi camionisti che avvisavano i punti del blocco, ci stanno i puff. I buffi, bravo, i buffi blu, quelli neri invece, non mi ricordo come si chiamano. Che ormai lo sapevano, rispondevano: sì, siamo qua. Stiamo qua, belli. Cioè, stiamo qua, esatto. E poi io vivo in un paese. Vuoi mettere la musichetta in sottofondo straziante? Io vivo in un paese molto piccolino. Non ero preparato, se me lo dicevi. Non eri preparato. No. E quindi la faccio io suoi. Esatto. Quindi praticamente io ero il più piccolino e quelli un po' più grandi avevano tutti i CB, e nel momento in cui ho iniziato a usare i CB, cioè avevo questo Midland, non mi ricordo se era un Alan 48-68, quello verde, mi pare che siano tutti verdi di quella serie lì, comunque avevo questo Midland a casa con questa antennina e ho incominciato, mi chiamavo Omega all'epoca. Ho cominciato volendo originale, originale, questo era ancora originale. E no, originale Omega, il nick, dico il nome, cioè, so Omega, come so Saturno. Omega, cioè, avevo 12 anni, ma mi chiamerei ancora Omega. Milanici, Omega 3. Esatto, ma era per quello. E quando ho iniziato, ovviamente, ecco uno dei drammi, riprendo il discorso di prima di Simone, che oltre a disturbare le televisioni, il problema è che se avevi un vicino che aveva il CB o era un radioamatore, eri costretto a stare con lui, perché se lui parlava io non potevo stare su altri canali e parlare con qualcun altro, perché le sue armoniche sporcavano praticamente tutti i canali che c'erano, per cui alla fine ci si trovava e si creavano dei piccoli gruppi e si parlava tutti più o meno nello stesso canale, no? Quindi sì, alla fine finiva così, si faceva la ruota, si stava tutti insieme, si entrava, era una cosa molto, io la usavo in una cosa molto locale, cioè si parlava con quelle 10-15 persone che già comunque vedevi, no? Sai, il discorso che si faceva dire vai, facciamo la verticale, ovvero ci troviamo poi di persone, sì, di presenza, sì. Ma noi in realtà eravamo persone che normalmente uscivamo e ci vedevamo tutti così, per cui il mio approccio è avvenuto grazie al fatto che i miei genitori usavano la radio ogni volta che viaggiavamo, e noi andavamo via 2-3 mesi d'inverno, e quindi sta radio era il mezzo di comunicazione col resto del mondo. Certo. Vabbè, allora Michela pure c'ha un'esperienza simile, perché lei dice i baracchini erano per noi un oggetto affascinante, con il camper in viaggio tra carovanate, vabbè, era l'unico modo per raccapezzarci e decidere magari all'ultimo momento di cambiare rotta velocemente, però poi era soprattutto uno spasso sentire i camionisti raccontare i loro fatti scabrosi. In effetti questo è un argomento abbastanza interessante, però convengo con quello che dice Andrea, perché anche in una città come Roma, anche se tu entravi in contatto con delle persone che non conoscevi, erano comunque persone tra virgolette del circondario, si finiva poi per diventare comitiva in qualche maniera, insomma, perché perché chiaramente la citizen band piuttosto che le bande radioamatoriali chiaramente avevano questa teoricamente portata limitata, e quindi diciamo si raggruppava quello che era l'ambiente che era intorno a te, che comunque era tanto, perché chiaramente è uno dei fattori strani che succedevano. Questo io l'ho notato più nella provincia che a Roma, anche se succedevano queste cose anche a Roma, perché i matti dei matti ci sono sempre stati. Era il pezzo di merda che magari rosicava perché pensava che uno era più amico di un altro, perché magari gli piaceva la voce femminile, o perché quella tizia preferiva parlare con uno piuttosto che un altro, che si metteva nei dintorni con magari un buon amplificatore, insomma con un buon alimentatore abbastanza potente, e sparava la portante, nessuno poteva più parlare. Cioè lui apriva il canale e quindi praticamente trasmettendo rendeva difficile ovviamente la comunicazione fra le altre persone, insomma, perché attufava il canale che tu di solito utilizzavi, quindi bisognava in qualche maniera organizzarci per spostarsi di canale. Ma se era abbastanza vicino, ovviamente lui entrava anche negli altri canali, e questo si spostava anche lui, comunque in qualche maniera. E questa era una cosa che succedeva molto più spesso di quanto poi non si pensasse, fino a che ovviamente non è capitato di vedere la famosa battuta di caccia. Cioè comunque le persone che lasciavano qualcuno a far finta che ancora parlavano al telefono, mentre gli altri si organizzavano e con radioconiometri o qualsiasi altro tipo, anche semplicemente con un CB portatile, no? Con i Walkman o quello che poteva essere, si andava in giro per cercare di capire in che maniera e dove poteva essere posizionato lo stronzo, e spesso e volentieri gli si dava anche una scrocchiettata, insomma, diciamo, capitava anche questo. Non so se amichevolmente magari Andrea ci ha avuto esperienze del genere. Però no, questo... no. Noi qua l'unica è che l'isola è piccola e confina col mare e la laguna, avevamo i pescatori. Quindi in certi orari era praticamente impossibile parlare, perché i pescatori coprivano buona parte che parlavano un po' dappertutto, poi urlavano perché non si sentivano col rumore della barca, ma no, questo assolutamente no. Devo dire che in linea di massima in quel periodo c'era una netiquette molto sentita, cioè la gente era molto rispettosa. Io mi ricordo queste ruote che giravano e tutti si prendevano il tempo che necessario, ma senza mai, insomma, togliere la parola agli altri. Ci voleva un po' di tempo, perché se uno doveva breccare per entrare, chiaramente ci voleva degli spazi, delle cose. C'era sempre qualcuno un po' più scafato che era quello che gestiva il tutto, no? Sì, no, stavo leggendo sulla chat che giustamente Gianluca dice vi ricordate le gare a caccia alla portante? Ma più o meno è quello che ho raccontato io, cioè nel senso, comunque quando c'era sempre... Perché questo comunque mi è capitato in determinati posti, questa situazione, quindi evidentemente era un po' un modo di fare, no? C'era, come dice Andrea, un'etichetta, diciamo, comportamentale, però poi alla fine c'era sempre quello un po' deviato, quello un po' strano, quello che magari non si integrava, oppure era proprio già disturbato di suo, cioè comunque gente matta, ragazzi, io... Nella mia vita veramente assecchiate, erano centinaia di persone, e uno ce lo trovi sempre che c'ha la luna storta, che gli hai fatto girare i maroni, che gli hai detto che tu c'hai l'amplificatore più potente della zona, e dice ce l'ho io, ma io c'ho il barchino quello nuovo, modello XY, tu no, allora via la portante. La sera non è che si parlasse, cioè alla fine gli argomenti erano: mi sono comprato il Lafayette, ma lui c'ha lo ZG, il ZG era il sogno di me, bagnato di tutti. Perché alla fine diventava nerdismo anche quello, no? Cioè alla fine era solo una cosa così, cioè cosa volevi parlare? Poi noi ci conoscevamo tutti, che cacchio. Diciamo che magari io per esempio al mare da me, che è il posto dove appunto ho avuto modo di giocherellare con questo mio amico che era venuto una settimana con sto cazzo di baracchino, poi mi ha detto vabbè io poi devo andare, guarda comunque agosto ritorno, mi fa, dice, poi insomma se vuoi ci rifacciamo. Quando era ritornato io già c'avevo il baracchino, già me l'ero comprato, perché puta caso erano sbucati, come avevo detto, già altre persone, che non mi ricordo qual era il primo baracchino che ci ho avuto, ma dopo pochissimo tempo, sempre parlando insomma con le persone in radio, a un certo punto era uscito fuori sto President Jackson che era il mio orgoglio, cioè nel senso, perché io mi ricordo che a Pesaro, perché io avevo, cioè, antenne installate dappertutto, a Roma, la casa al mare, a Pesaro, e a Pesaro praticamente la casa dove stavo io era un attico, in un quartiere insomma pure abbastanza aperto di Pesaro. Quindi sta antenna, a parte che la vedevano tutti, diciamo, sta Mantova 5 alta, bella piazzata proprio sopra, in alto, tutta con i tiranti, insomma una cosa fatta come si deve, e sta antenna sparava una cifra, quindi a me, cioè nel senso, ero proprio la goduria, no? Però poi ero uno con l'accento romano, no? E quindi alla fine, sai, facevi tanti amici, ma poi c'era sempre pure quello che ti veniva un po' rompe le scatole. Ecco, insomma, alla fine era una situazione, un ambiente che non era tanto dissimile da tanti altri, no? Cioè nel senso, da altri tipo di situazioni di socialità dove c'era il bene e c'era il male. Però devo dire la verità che era affascinante conoscere gente e immaginarti com'era, cioè, perché per esempio, ecco, bisogna dire la cosa, insomma, che tu quando magari conoscevi, che ne so, in un canale c'erano anche due o tre ragazze, tu entravi, cominciavi a prendere confidenza, poi, oh ragazzi, ci vediamo tutti insieme, ah sì sì che bello, cioè, ci vediamo, e alla fine erano una zoppa, una cagobba, l'altra con tre nasi, cioè delle cose improponibili, chiaramente, perché giustamente, e questo lo impari dopo, comunque se era gnocca non stava a CB, stava a fatto, insomma, no? Cioè, nel senso, questo è un po' discriminatoria come affermazione, però insomma però generalmente era così, come... però dai, c'è sta, insomma, io penso che Roberto condivide questa mia tesi. E come potrei non condividere questa tua tesi? Io amo il CB, il baracchino, il fatto del radioamatore, sebbene devo dire che non l'ho frequentato come te o come probabilmente come gli altri. Per me è stato un periodo abbastanza breve. La parte che mi affascinava è quella che ho visto da alcuni radioamatori professionisti che facevano la cosa classica, quindi facevano il CQDX, cioè parlavano con posti lontanissimi e poi si mandavano anche la famosa cartolina per... col P.O. Box, esatto. Ma c'era il P.O. Box, ma che è il suo P.O. Box? Tutti dicevano, ma ci devi avere la casella postale, perché... Ed era una cosa per me veramente affascinante pensare, per l'epoca, cioè adesso è probabilmente anche ridicolo, non lo farebbe nessuno, però pensare di riuscire a parlare con persone che stavano davvero davvero lontano. Scherzi? E in alcuni momenti, con alcune configurazioni particolari, eccetera eccetera, non so, dall'Inghilterra si contattavano tranquillamente gli Stati Uniti. Sì, sì, c'erano tutte delle, nella sera, in un certo momento particolare. Diciamo che io massimo che da Roma, anzi, dalla mia casa al mare, anche lì, una posizione abbastanza alta, insomma, diciamo che il massimo che ho fatto la Spagna e il Marocco, devo dire la verità. Però e da Pesaro San Marino, ma San Marino sta là, insomma, alla fine, cioè, poi che si può considerare internazionale la chiamata San Marino, insomma, però dai, diciamo che era affascinante. Possiamo parlare anche già di banda SSB, però certo. Quando scopri che la ionosfera fa rimbalzare le onde, segnale, sì. Esatto. Oppure quando le giornate di vento. Prima Simone citava il President, io ho avuto dopo l'Alan, ho avuto il Lincoln, sì, preso, okay, sì. Ecco qua, se vuoi mettere un'altra musichetta, preso ad Andorra, durante un viaggio. Esatto, questo ad Andorra, mentre andavamo sempre in viaggio, io avevo questo CB in camper, ci fermiamo ad Andorra e ad Andorra scopro che lì in quel periodo costava veramente poco la roba, vedo in vetrina questo President Lincoln e lo vendevano, ovviamente non come in Italia, lo vendevano se volevi modificato, quindi bande aggiuntive e soprattutto modifica a 30 watt. Quindi quando l'ho portato, me lo sono guardato tutto il viaggio, perché andavamo alle Canarie, mi pare, tutto il viaggio, che non ho potuto usarlo, che lo guardavo coccolandolo come se fosse la PlayStation, e quando sono arrivato ovviamente a casa l'ho attaccato, la prima cosa è subito SSB, tac, e via. Per vedere di fare dei sì, comunque anch'io ce l'avevo già modificato, e più ovviamente c'avevo anche il mio bel alimentatore, è tutto prescritto, hai cioè, sì, ma non mi frega un cazzo, devo dire la verità, cioè, nel senso, lo dico sinceramente, nel senso che non mi pento e non mi vergogno. Se dovesse arrivare qualcuno a dirmi qualcosa, dico che cazzo vuoi, cioè, perché tu non l'hai mai fatto. Come quelli che ti dicevano, ah, lei ha il software privato, è pirata, adesso venga a casa tua, mi fai vedere il computer di tuo figlio e poi dopo ne riparliamo, insomma. Esatto. Vabbè, comunque il discorso, io una cosa che c'avevo, che sapevo che dava fastidio, ma ce l'avevo così perché l'avevo già comprato, cioè avevo un bellissimo microfono di quello da base, sai, insomma, faceva molto radio de notte sta cosa, Lafayette, che c'aveva il beep, che era una cosa no, pensavo c'avesse l'eco, perché poi sono arrivato, no, c'era l'eco, vabbè, però l'eco ci giocavi un pochetto e poi dopo te rompevi il cazzo, che faceva il beep era una cosa terribile, soprattutto alla notte, perché quando c'erano quelli che non lo potevano disattivare perché magari era interno, cioè nel senso, non so adesso quali cazzo i motivi, non mi ricordo. E tu parlavi tranquillo, a bassa voce, quando lui finiva di parlare, al rilascio della portante, praticamente c'era sto bip e poi si staccava. Cioè, era una cosa fastidiosa, anche perché da notte ci stavi con le cuffie, non è che stavi senza cuffie, insomma, giustamente, no? E devo dire che però, belle chiacchierate. E c'era anche questa cosa di a volte di utilizzare il baracchino con questo mio amico come se fosse una radio, cioè nel senso, noi facevamo. Prendiamo un canale e se mettiamo su questo canale con la portante sempre aperta, ma tipo 20 minuti e non chissà quanto, mezz'ora, e facevamo tipo una trasmissione radiofonica praticamente. Quindi mettevamo la musica nella maniera più tamarra possibile, tipo mette ovviamente il microfono vicino alle casse, e facevamo questa trasmissione, si chiama Radio Scherzo Notte, e piavamo per culo alla gente fondamentalmente. C'era un camionista in particolare che mi aveva proprio puntato, perché gli stava sul cazzo che facevo sta cosa. E dici, guarda che io lo so dove stai, guarda che ti ho visto l'antenna tua, guarda che te venga a rompere, guarda che te faccio di qua, te faccio di là. Insomma, diciamo che c'erano sempre quelle situazioni un po' al limite a volte, soprattutto di notte, però era il fascino, veramente, ragazzi. È difficile da descriverlo, io non so, forse Andrea magari ci riesce meglio, che insomma poi alla fine. Beh, il fascino era il fatto che consideriamo che in quel periodo io cominciavo anche, come diceva Carlo prima, cominciavo anche il Videotel e la Fidonet più o meno, ma il fascino era quello di poter parlare ed essere anonimo per molte persone, no? Non c'era l'immagine, quindi riuscivi a prenderti a volte queste libertà anche del gioco, dello scherzo, ci stavano, insomma, oltre agli amici con cui ti sentivi. Era una bella sensazione, sicuramente. Sì, c'era questa cosa dell'anonimità che dava. Non so chi l'ha scritto prima, l'ha scritto qualcuno, ma mi ricordo di averlo fatto anch'io. Per quando soprattutto non sapevi ancora come usarlo, di continuare a dire brecco, brecco, brecco, brecco, e poi non dire niente dopo. Esatto, avanti il break e nessuno. Esatto. Però lì sei stronzo, o non sai come funziona, o sei stronzo. Non sapevo come funzionava, avevo tipo 14 anni neanche. No, ma magari c'avevi pure il fascino di fa break, poi dopo che quelli ti davano parola non sapevi che dire, cioè ti vergognavi. Anche questo. Tra l'altro spieghiamola sta cosa magari per quelli che ci ascoltano, che non sono i quattro gatti, insomma, super nerd che vedo che stanno iperpartecipando. Cioè, nel senso, questa cosa del break, che poi noi ovviamente questo è tipo un ictus, ragazzi, vabbè, lo rendevamo italiana sta cosa, e diciamo brecco, brecco, italianizzavamo, bravo, italianizzavamo, e non mi veniva, ragazzi, c'era un momento c'era un mutamento di lingua, un neurone o un embolo stava passando di là, insomma. Vabbè, comunque, diciamo brecco sul canale, perché chiedendo il break, chiedendo l'interruzione, il permesso, insomma, di poter parlare, e ti veniva data ovviamente la possibilità di parlare, a quel punto tu dicevi la tua e da lì, insomma, cominciavi a diventare amico, insomma, diciamo, di queste persone. Oppure salutavi, perché i CB avevano tutti considera che i CB sono nati in un periodo in cui erano da poco state legalizzate queste cose, per cui l'anonimato era una delle cose che si cercava di tenere di più, e c'è tutto un codice, per esempio l'uso del 73 o del 51 che servono i saluti, l'88 che sono i baci. Sì, guarda, io ti devo dire la verità, che io il codice, cioè tutta la codifica la conoscevo e la utilizzavo come tutti quanti. Oggi veramente non mi ricordo niente. L'unica cosa che mi ricordo era l'alfabeto fonetico, che è la cosa il 99 è l'alfabeto fonetico, che è la cosa che mi è rimasta più impressa perché me l'ero studiata, no? Cioè, nel senso, comunque, come diciamo prima, chi si chiamava Orione, chi si chiamava Sirio, chi si chiamava Saturno 43, chi si chiamava io ero spizzo Totano 2 e spizzo, e quindi ero Sierra Papa India Zulu Zulu Oscar, no? Cioè, nel senso, cioè, avete preso in giro, però Omega, lui si chiama Spizzo, io Spizzo, ma Spizzo almeno era originale, come quando io sono andato dal veterinario per la prima volta tutti il gattino, come si chiama il gattino, Fuffi, Milli, Tilli, Tilli, e tuo Ceppa. Ma perché gli dicevi curami sta ceppa? No, perché io si chiamava Ceppa e il veterinario ha detto finalmente un nome originale. Oh, bravo. Curami sta ceppa. Si chiamava ceppa di gatto, sì. Ceppa di gatto. No, invece io comunque che non ho ancora dato il mio contributo, perché ti lamenti, sì, e poi dopo dici che non lo... No, perché dico la mia nel mio piccolo, nel senso che io non ho mai avuto un baracchino e non mi è mai scattata questa molla, pur avendola vissuta in due modi diversi. Una, vabbè, l'ho vissuta perché c'era un mio amico che ce l'aveva e me l'ha fatto vedere, il baracchino se no capite male, mi ha fatto vedere il baracchino, mi ha fatto vedere come funzionava il meccanismo, l'ho visto. Ragazzo ceppa e fa vedere qua. Esatto. L'ho visto. Come si chiamava il baracchino? Ceppa. Non mi ricordo. Era sicuramente una ceppa di minchia, detto così. Comunque mi fa vedere quella roba lì, la vedo, bella, finita quella visione lì, per me è finito, il CB era finito quella sera lì, è iniziato e finito direttamente, non proprio zero. Vabbè, perché secondo me a te ti piaceva smanettare, il chiacchierare non te ne fregava un cazzo fondamentalmente. Però l'ho vissuta comunque in un modo leggermente diverso rispetto a chi lo utilizzava, perché voi che lo utilizzate l'avete vissuto con tutto un vostro sentimento, con tutta la vostra, cioè, con tutte le criticità, le cose del utilizzo. Io invece l'ho vissuta dall'altra parte del banco, cioè il negozio dove vendevo questi aggeggi, dove vendevo i pezzi, tutto quello che poteva servire, e servivo le persone appassionate, anzi direi fanatici più che appassionati, alcuni di questi, e sentivo tutte ste vicende, e quando se ne trovavano due o tre insieme in negozio, che uno veniva a comprare un cavo, cominciava, sto comprando un cavo perché, ma tu compri ancora quel cavo lì, no? Perché, ma quello bisogna prendere, no? Questo, e allora cominciano a parlare due ore, e alla fine uscivano con un mare di troiate, compravano di tutto. Comunque, c'era veramente quello che ho visto io in questo mondo, che non è la stessa cosa che avete visto voi, cioè voi avete visto il lato romantico, il lato entusiasmante, il lato carino, bello, l'emozione. Io invece ho visto il fanatismo, ho visto la gente che si accoltellava, ho visto la gente che comprava delle robe inutili, veniva in negozio e diceva, quello là ha comprato quello, io adesso compro 10 di questi, cioè proprio follia totale. E poi tutta questa gente che poi improvvisamente diventava gente che ti dico quasi alla soglia dell'analfabetismo, alcuni, però cominciavano a entrare in un loop dove cominciavano a comprare strumenti di misura. Ho comprato l'oscilloscopio Tektronix, l'analizzatore di spettro, il misuratore. Poi le faceva vedere le foto, c'è un laboratorio. Come tutti il nerdismo, come abbiamo detto, tutto il nerdismo estremo. Neanche sapeva accenderla quella roba lì, cioè, proprio compravano perché l'aveva comprato l'amico, allora lo comprava ancora più grosso. E io vedevo gente che, e poi dopo vabbè, alcuni mi hanno raccontato degli aneddoti che sono capitati, insomma, comunque io vedevo il lato brutto della cosa invece, perché non mi piaceva quella roba che vedevo a quei livelli. Poi io che lavoravo in negozio andava anche bene, perché la gente veniva a comprare la roba, e per cui infatti, per me tutto andava anche bene. Però non mi piaceva, non volevo diventare una persona così o avere quel giro. Io che proprio l'ho proprio schivato, non l'ho mai vissuto, pur avendo un ricevitore a radio a casa. Mio padre aveva una radio, ha comprato un radiolone che aveva 100.000 bande, si poteva ricevere aerei, taxi, polizia, tutto si poteva ricevere, e sentivo anche i CB. Ogni tanto li sentivo perché... c'erano delle sere che si dicevano tante di quelle cavolate, c'era anche da ridere, però facevo solo l'ascolto, non potevo parlare, quindi ascoltavo e basta, come ascoltavo gli aerei, come ascoltavo una volta, si potevano sentire le comunicazioni senza... Sì, era uno scanner. Sì, sì, esatto. Non era criptato niente, si poteva sentire tutto, si sentivano i tax, se ti ricordi, no? Cioè, i tax, anche il telefono, i tax. Le CPU a quell'epoca già facevano fatica a fare 2+2. La cosa del tax, poi dopo la racconto, perché comunque, anche io ne ho una bella da raccontare del tax. Nel frattempo, giusto, se vi interessa, al 77esimo Italia ancora 0-0 con la Macedonia, insomma, quindi la vedo dura. Sapevo neanche che giocava, quindi fai te. Eppure insomma importante, perché sennò non vai ai mondiali, tipo, insomma, comunque perché l'ultima volta ci siamo andati ai mondiali. Appunto, però sai, appunto, due volte di seguito. È morto qualcuno? No, e allora qualcuno sarà pure morto, secondo me. Può essere. In Brasile succedeva, cioè, sai, in Brasile si ammazzavano, facevano i suicidi di massa. Purtroppo in Italia no. Un certo allenatore non è morto, però vabbè. Quello lì no, vabbè, poverino, dai, alla fine. Comunque, per esempio, questa questione del... Non so che te sei in lutto, Simone, perché domenica la... È stata bruttissima, però... infatti. Però tranquillo, io l'ho affrontata bene, anche perché già dopo 10 minuti era già finita, quindi ci ho avuto il tempo per metabolizzare, capito? Quindi sono stato tranquillo. Si è mangiato una terrena di riso con i gamberetti. Ah, hai visto che roba? Sono bravo a fare così. Comunque non c'entra niente. Torniamo un attimo alla trasmissione. Diciamo, prima di raccontare questa cosa del tax, che comunque è carina, perché insomma c'erano dei metodi, delle cose, insomma, uscivano fuori di cose divertenti. Andrea, qual è la cosa più particolare, diciamo così, che ti è capitata da... ecco, insomma, da radioamatore, da CB o radioamatore, insomma, cosa più particolare, più strana, più divertente, o quella magari che è affascinante, perché magari dici, ma che è sta cosa, no? Che può succedere anche quello, insomma. No, mi cogli impreparato. Niente, non ti è mai successo niente, insomma. No, di cose tecniche tantissime. Intanto mi riallaccio un attimo da Davide, perché approfitto per chiedere umilmente scusa a tutti i negozianti, a cui anch'io sono andato a cazzo con il cavo RJ58, ma forse era meglio il 75, perché col 75 ohm ci sono meno watt di ritorno e l'accordatore d'antenna. Vabbè, sì, a me mi fa ridere Davide che dice questa cosa sui radioamatori, ma secondo me lui nel resto delle cose sarà stato uguale, peggio. Ma pure io andavo al negozio dei computer sotto casa, andavo lì e rompevo i coglioni per ogni cosa. Ricordiamo che io sono stato il primo Pentium 60 venduto a Roma, quindi insomma, quello col bacco, quello col bug. Allora non si sapeva ancora, si è saputo dopo. Troppo, ero troppo piccolo, diciamo, per avere esperienze particolari, ma anche di aver conosciuto qualcuno di particolare, perché come ti ho detto, realtà piccola, paese piccolo, ci conoscevamo tutti, no? E la gente mormora. Mormorava sul CB, no, di cose invece elettroniche col CB tante, perché ovviamente valvole fuse, stecche prese qua e là per toccare le valvole e cambiarle mentre magari c'era ancora corrente, quello sicuramente. Però tutto il resto no, ero troppo piccolo. Vi racconto io allora un aneddoto particolare che mi è capitato, come non direttamente, ma sempre raccontato lì in negozio da queste pettegole di radioamatori che venivano da me, no? E vi raccontavano che c'era un tizio che, mentre alcuni che sapevano quello di cui stavano parlando discutevano fra di loro di soluzioni, di risoluzioni di problemi, no? Insomma, ma mettendo questo dispositivo in questo posto succede che migliora questo, migliora quello, e il giorno dopo si presentava sempre un tizio che diceva: ah, ne ho fatta una pensata, ho messo questo aggeggio qua, e questo... Tutte le volte si beccava i meriti di roba di cui avevano parlato altri, no? Allora questi qua una certa sera si sono messi d'accordo e hanno inventato una barzelletta, una palla, no? Dicendo che con una ruota di bicicletta sono riusciti a fare un'antenna che avevano una ricezione della Madonna, avevano una portante fantastica, nessun disturbo, ed è incredibile, montando 5 raggi, uno sì, uno no, si sono fatto tutta una roba tecnica, e il giorno dopo mi ha portato la fotografia, c'era questo che si chiamava Niki Lauda, come Nick, sul tetto aveva la ruota della bicicletta e l'hanno subito sgamato e ho cominciato a dire ho fatto un'antenna con una ruota di bicicletta, questo, e ci siamo messi a ridere e che gli hanno fatto il tranellone. E questo Niki Lauda, ragazzi, era uno che veniva da me in negozio, era sempre lì e comprava di tutto e veniva lì a raccontare, ma proprio con quella spavalderia, no? Ho comprato l'oscilloscopio Tektronix, adesso ho anche l'analizzatore 2751, cioè tutte le sigle, tutta la roba, e poi non so, cioè, deve saldare un cavo, cioè, come si salda sto cavo? Perché me lo devi da saldare? Me lo saldi tu? Cioè non sapeva neanche saldare un cavetto e si compra l'oscilloscopio, eccetera. Per quello che mi faceva un po' rabbia, no? Perché è sempre quella storia che chi ha i denti non c'ha il pane, chi c'ha il pane non c'ha i denti e viceversa. E quello aveva tutta la roba, ma solo perché doveva far vedere agli altri che ce n'aveva più. Beh, io al di là delle cose tecniche, ho tre episodi molto veloci da raccontare. Uno era... lo trovai molto divertente, un ragazzo che conobbi proprio grazie alla radio, che una volta mi venne a prendere, siamo andati a fare un giro, dicevo, sai, io c'ho una cosa fighissima, dice, se tu spingi sto switch, praticamente col microfono cioè c'aveva il CB in macchina, col microfono, prendi il microfono c'ho un altoparlante sul cofano e parli tramite il cofano. Io dicevo, vabbè, ma che è sta cazzata? E invece lui praticamente si era avvicinato a un gruppo di ragazzini che giocavano a pallone, ha preso il microfono e polizia, tutti in mano in alto, capito? Cioè, ha cominciato a fare cose del genere e tutti questi ragazzini sono spaventati. Ed era figo perché se sentiva una cifra sta cosa, allora ho detto no, adesso andiamo in giro a fare disastri con sta roba. Ed era divertente perché, cioè, era una cazzata, però era divertente. Cioè, nel senso, comunque lui aveva sto altoparlante, capito? Esterno, che faceva. E tu ci potevi parlare, cioè, attenzione Marinato, signora, cioè, signore che si aggiravano capito? E non, cioè, si capiva da dove arrivassi, e senti scherzi stupidi, no? Che però vabbè, come facevi a non approfittare di un gioiello del genere? Almeno lui era capace di farlo, esatto. E invece c'era altro, sempre uno in auto che aveva comunque st'antenna con una bella amplificazione sotto, con una bella alimentazione sotto, e faceva vedere, guarda che se tu prendi un tubo neon piccolo e lo metti vicino all'antenna, se il segnale è veramente potente si accende. Faceva, tant'è che molti ci aprivano i cancelli, i FAC con sti cazzo con ste portate belle. Si accendevano i neon di tutto tutta la scala, si accendevano delle sere. Esatto, cioè, quindi insomma alla fine era figa. E la terza cosa è che io ci ho vinto un trofeo proprio a Pesaro. Fecero praticamente questo, il CB Club di Pesaro fece questo concorso, si vinceva un prosciutto, prosciutto intero, quindi insomma una roba importante. Loro praticamente mettevano nella provincia un'antenna con una portante fissa e tu la dovevi trovare, cioè, fondamentalmente. Io avevo questo gruppo di amici con i quali eravamo diventati amici, che andavamo in giro devo dire che sono stato abbastanza bravo e ci ho avuto anche abbastanza intuito, e alla fine abbiamo vinto. E vabbè, insomma, con gente che lo sapeva. No, il prosciutto lo siete divisi in tre? No, il prosciutto poi l'ha tenuto quello più disgraziato dei tre, insomma, perché tra l'altro l'ultimo ricordo che mi è venuto in mente è proprio legato a queste persone che conoscevo, di cui uno era un ex tossicodipendente pregiudicato, che però alla fine in qualche maniera lui aveva rimesso in sesto la sua vita, insomma, c'aveva una moglie, c'aveva una bambina piccola, però era ancora segnalato, schedato, quindi insomma ogni tanto che lo fermavano c'aveva sempre dei problemi, e c'aveva sta grossa Diane. E una volta insomma ci eravamo visti, insomma, la prima volta che ci eravamo incontrati e via dicendo, e lui mi ha detto, ma perché non mi fai vedere il President Jackson, mi porti giù? Allora l'ho portato giù, l'ho fatto vedere, siamo stati lì un po' a chiacchierare, abbiamo provato a smanettare, mi ha spiegato delle cose perché lui sapeva tante cose, e vabbè, ho detto vabbè, mo vado a dormire. A un certo punto, mentre che stavo per uscire dalla macchina, si accende un faro gigantesco che erano i carabinieri. E praticamente io quando sono sceso dalla macchina ho detto vabbè, se riesco io intanto me provo a andarmene. Invece poi mi si era incastrato il filo nella portiera della macchina, mi sono rimasto là con sta luce sempre più forte. Ho preso praticamente sto preso in cesso, l'ho messo sul tettino della macchina, ho alzato le mani e ho detto vabbè, raga, eccomi qua. Cioè, perché poi io dicevo vabbè, pensavo che fosse il presidente Jackson il problema, poi il problema erano ben altri, insomma. Poi alla fine io ho spiegato che ero lì perché dovevo fare un'operazione, quindi sarei stato lì dei mesi, mi serviva per tenermi in contatto con la gente del carabinieri. Faccio no, guarda, oh, spero tutto bene, poi facci sapere se non è tutto bene. Però insomma devo dire, alla fine è stata divertente. Devo dire, tante conoscenze, tante situazioni, tanti scherzi, molto gioco, ecco. Io ricordo che ci ho giocato molto questa cosa, insomma. Ma c'avevi il nome sulla macchina? Perché si usava tantissimo, ma io che andava in giro col CB, no, col CB in macchina, avere il nome scritto dietro in modo da poterlo chiamare, se no non sapevi come si chiamava. Quando come sui camion, che c'era come sui camion, certo. Beh, sì, no, io non ce l'avevo, io non c'avevo la macchina, non c'avevo la patente ancora, perché comunque ero ragazzino quando facevo queste cose, ragazzetto, diciamo così, e quindi non ce l'avevo. Però insomma, devo dire, veramente io me lo ricordo veramente con grosso piacere. Però poi alla fine anche lì è successa una cosa che succedeva sempre nella mia vita, quella di incontrare, cioè, insomma, Carlo, gli amici di Runtime lo sanno, cioè l'effetto rastrello praticamente, no? Cioè io nella mia vita andavo in giro e rastrellavo i pazzi che stavano dentro, e tutti mi si attaccavano, tutti a me, i scemi, capito? Cioè, nel senso, e questa è una cosa che è continuata negli anni, a 50 anni. Grazie. Ho capito, grazie. C'è dato di... no, vabbè, ma non voi in generale, lo sapete, insomma, dai, sì, che sì, si okay. Sono accozzate un sacco di scemi a me, no? Quindi... Però tu lo dicevi sempre, che finché non c'è qualcuno che ti minaccia di morte, non sei nessuno. Non sei nessuno, esatto. Ed è successo anche questo, infatti, poi. Comunque vabbè, dai, questo è un po', ecco, questo mi dice giustamente Gianluca che quello che ho descritto io era proprio la gara a caccia alla portante. Sì, vabbè, io non sapevo che avesse un nome questa cosa, so solo che mi sono divertito e ho vinto, e quello essere stato divertente, sì, ammetto, sì, che sì, una bella giornata, perché poi alla fine comunque era andata tra una cosa e un'altra, andava via la giornata, insomma, perché la gara finiva quando c'era il primo che arrivava, insomma, a destinazione. Perché non è comunque così facile, Vincenzo, non dice è così che facile mi devo, come sembra. Vincenzo mi dice che mi devo chiedere il perché, e lo so, ma guarda che questa non è una cosa adesso, Chi mi conosce da una vita lo sa che io come camminavo c'avevo un rastrello dietro, se mi venivano tutti dietro, insomma. Quindi è il bello e il brutto allo stesso tempo di fare tutte le iniziative, e sono state tante, che ho fatto nella mia vita coinvolgendo le altre persone, insomma. Dicevi, scusa. No, niente, oltre a ricordare le cose che non mi sono piaciute, però ci sono anche state delle cose che erano di valore. C'erano anche persone brave, persone in gamba, persone radioamatori molto, molto esperti. Cioè, nel negozio chiaramente venivano di tutti i tipi. E ricordo in particolare questa cosa di questi personaggi che erano dei radioamatori patentati, molto esperti, che... Ricordo che sono venuti da me in negozio molto affrettati a prendere un sacco di materiali, perché dicevano che per i loro servizio di radioamatori dovevano andare urgentemente, adesso non mi ricordo quale terremoto fosse, nel 1980, così, quegli anni lì, sarà Irpinia o qualcosa del genere, partivano per dare il supporto radio, perché là non andava più niente, certo, non c'era più niente, certo. E questi qua, professionisti in gamba, sono venuti a prendere un sacco di roba per partire proprio dalla mattina alla sera a disposizione per andare a dare supporto alla Guardia Nazionale, essendo patentati sono stati reclutati per dare supporto, diciamo, non so come si possa chiamare, supporto di comunicazione, allora, radio. Supporto radio, sì, semplicemente. E quindi questo invece era una cosa molto positiva, che insomma non è da tutti, anche perché prendere, partire e andare a fare il proprio servizio come se fosse un lavoro militare, quasi, cioè a livello quasi militare, e era interessante, mi aveva affascinato, mi aveva colpito questa cosa di questi che partivano così, ragazzi anche giovani, che mi raccontavano. E quindi non sempre è sempre stato solo cazzeggio, o... anche perché la protezione civile non c'era ancora, perché mi pare che sia degli anni 90, Sì, e comunque chi c'era aveva attrezzature molto limitate per un evento come quello che era quindi alla fuori portata di chiunque, come gestione intendo, eh. E quindi cioè, per considerare che a volte anche questa cosa, adesso vabbè ci saranno i cellulari, ci sarà di tutto, non esiste più forse. Ancora nella radio. Sì, si userà ancora, ma all'epoca c'era veramente solo quello e probabilmente certo. Quello ha consentito di non dico salvare vite, ma forse ma io anche io penso sì. Che sia uno strumento ancora standard, proprio perché comunque il cellulare o tutte le linee digitali hanno dei limiti oggettivi, soprattutto nei posti dove ci sono delle catastrofi, no? In montagna, nei rifugi, sì, non c'era il telefono, hai capito? Non arrivava la linea telefonica e prima di agganciarci al tax, che quello sì che ci arrivava su, ma molti rifugi sulle vette su avevano la radio per poter comunicare. Se arrivavano valanghe o c'erano situazioni di difficoltà, quello era l'unico mezzo che avevano per poter chiamare un soccorso. Sì, ma il vantaggio di una ricetrasmittente è che trasmette e ricevono direttamente da strumento a strumento, no? Quindi non c'è bisogno dei ponti radio, cose che magari sono crollate per il terremoto, cose che comunque infrastrutture che possono impedire poi la comunicazione. Quindi il vantaggio resta sempre quello, no? Da quel punto di vista. E devo dire sì che ce ne sono state diverse occasioni, anzi attenzione, ha segnato la Macedonia, incredibile. Sì, bella figura di merda, complimenti, chiudiamo la diretta, chiudiamo adesso veramente metti una musica, lutto nazionale proprio, cioè incredibile ragazzi. al novantesimo incredibile, non ci voglio pensare a sta cosa, che cosa, che quello che stiamo vivendo in questo momento, facciamo finta di niente. Comunque quindi siamo fuori dai mondiali, sì. Definitivamente o no? No, definitivamente. Sempre. Mai più potrai mai giocare. No, nel senso, anche questo mondiale è andato. È andato perché questa era una partita diretta. Se vincevamo questa, dovevamo andare alla seconda. Non so se c'è una verifica VAR, però vabbè. Insomma, comunque, vabbè, dai, ragazzi. Bello. E veniamo alla questione, così chiudiamo un po', perché insomma questa cosa mi ha un po' intristito, diciamo la verità. E veniamo alla questione degli scanner, no? Cioè, chiudendo anche un pochino, perché poi insomma alla fine non era il tema della giornata. E in effetti, sebbene alcune riceventi, insomma alcuni dispositivi avevano la possibilità, come dicevamo, gli scan, di sentire tutte quante le frequenze possibili immaginabili, quindi che da quello che ricordo io era comunque illegale una cosa del genere, insomma, perché andavi ad ascoltare anche cose che non dovevi, che non dovevano essere alla tua portata. C'era una cosa del genere, l'ho raccontato non so recentemente a chi e come, quando, dove e perché. Io avevo un telefono Bosch Etax, insomma i primi, insomma lo pagai 800.000 lire, mi ricordo che fui praticamente per molti anni l'unico, insomma, delle persone che conoscevo che c'era un cellulare. Me lo potevi permettere per un motivo particolare che vabbè, non sto qui a raccontare. Comunque mi ricordo che andai a sto negozio e dissi: senta, io volevo comprare un telefono. Poi mi ricordo che per comprare il telefono allora ci voleva la bolletta, due o tre bollette del telefono fisso. Ovviamente la compagnia era una sola, cioè nel senso c'era sempre la monopolista, la SIP. Non so se già si chiamava Telecom, però comunque sì, era quella lì, c'era solo quella. E vabbè, tutta una serie di cose che comunque garantivano, perché comunque, cioè, il costo delle telefonate era, cioè le bollette potevano essere veramente care. Poi vabbè, uno lo usava al minimo indispensabile. E arrivò, insomma, dopo un po' di tempo, un amico mio mi disse: lo sai che se tu levi la batteria e nei tre piroletti della batteria metti una carta stagnola a quello centrale, poi rimetti la cosa, spingi asterisco 08 asterisco, il telefono diventa uno scanner, cioè non limitato, perché ci poteva prendere solo una determinata gamma di frequenze, esatto, non arriva il termine. E tu le frequenze le digitavi col tastierino, tipo 14.347, cioè, quindi andavi, insomma, non so se potevi andare avanti con l'asterisco e il diesis addirittura, insomma adesso non mi ricordo, insomma, come funzionava. E intanto beccavi conversazioni per lo più radiotelefoniche, cioè nel senso, magari, che ne so, la tipa che con con il telefono portatile dentro casa, no? Il cordless magari parlava con l'amante, quindi sentivi sempre storie scabrose, oppure qualcosa in radiofrequenza, non lo so, però insomma qualcosa la sentivi, solo ci voleva fin troppa pazienza per riuscire poi ad ottenere questo risultato, insomma. Però devo dire che si faceva, effettivamente la facevo, l'ho provato io, poi non so se quella cosa della carta stagnola avesse un senso, no? Cioè nel senso se... Come no? Se faceva, no, però insomma... Sì, cioè, serviva. Punticellati. Beh, comunque sullo scanner ce l'ho io una storia. Io avevo un collega, adesso è ancora identificabile, quindi non diciamolo che... Non diciamolo. Che era... Vabbè, il suo soprannome era ASAP, che vuol dire... E praticamente era magari ancora è noto per avere diverse fidanzate, diciamo così. Tra l'altro la cosa buffa è che era, essendo molto confuso, lui aveva 3-4 fidanzate all'epoca, di cui era una si chiama Maria, una Maria Elena, una Maria Antonietta, non mi ricordo, e un'altra Eugenia. Quindi per evitare di confondersi, lui solitamente diceva Marie. Il problema, vabbè, questo non c'entra, poi vi dico cosa c'entra lo scanner, comunque che una volta lo sento che lo chiama Eugenia e lui risponde Marie, però il genio, voglio dire, non è poco, fa Marie, ma ricordo una volta, cioè era incredibile, però Eugenia dopo mesi e mesi di queste strane cose, lui le lasciava il sabato per non uscirci, perché non poteva uscire con tutte, litiga, cose assurde, si comprò uno scanner e riuscì praticamente, si piazzò fuori e riuscì a intercettarlo mentre parlava con le altre. Ebbene, fuori dall'università, davanti a tutti, lo beccò, lo riempì di schiaffoni, fu una scena bellissima, epica, che rimarrà alla storia. Praticamente lei si era comprata uno scanner per cellulari, non so dove cavolo, cioè, no, immagino non fosse nemmeno una cosa che puoi comprare, voglio dire. Ebbene, l'ha fatto e l'ho riempito di mazzate. Questo con i primissimi cellulari, chiaramente. Sì, i primissimi si sentivano come. Sì, o attraverso il cellulare stesso taroccato, tipo il Bosch, o con degli apparecchi un po' più costosi che facevano da scanner su tutte le frequenze, insomma. Eh sì. Vabbè, dai. A proposito, invece ne ho preso uno alle Canarie, che permetteva di ascoltare, adesso io non mi ricordo, i tax li sentivo sicuramente, diciamo che la storia carina era che poi sono usciti gli ETAX e se non ricordo male nell'ETAX c'era il cambio di frequenza durante l'utilizzo. E mi ricordo questa storia, cioè che stavo ascoltando queste due persone che amoreggiavano al telefono, no? E continuava a dirgli no perché ci vedremo, ecco, e lo sai cosa ti farò, perché io ti prendo e detto cambiato canale, sono passati 30 anni e ancora non so che cazzo gli farà a sta qua, e quindi se mi senti in diretta, se mi vuoi chiamare, poi diamo il numero e mi dice che cazzo di voleva fa, perché non lo sapremo mai. Però mi pareva che fosse l'ETAX che cambiava frequenza durante l'utilizzo, magari mentre si muoveva, cambiava cella, però cambiava canale. Una conversazione simile mi è capitata anche a me, solo che è stata più brutale come cosa, perché praticamente lei dice no, vengo, dice, come te organizzi con lui, no? Perché chiaramente, cioè, lui era questo tipo con cui parlava, era napoletano, lei era romana, dice ma non ti preoccupare, io ho trovato il sistema, vengo giù, stiamo un fine settimana insieme, bello, dai, che così famo, così famo colà, quello gli diceva, vabbè, il napoletano è un sto a fare romano, dice lei, fa, dice, c'ho il ciclo, allora che cazzo viene a fare. E lei ci rimase d'un male, comunque vabbè, dai, stesse storie. Vabbè, ma anche lei, scusa, lo so, infatti è quella stessa cosa che penso io, però poi dopo se lo dici lì ci voleva il microfono e dovevi rispondere tu, hai capito? Cioè... però se posso dire, a me adesso mi attirerò critiche giuste da parte di tutti. Le critiche a me non giuste. Piaceva tantissimo l'ambiente, dico, dei CB. Del mondo, non mi piace l'ambiente del mondo. del mondo, non mi piace l'ambiente. Delle conversazioni che si facevano, delle cose, non mi ha mai appassionato tantissimo. Cioè di ascoltare le telefonate o la gente che utilizzava gli cellulari in quell'epoca? Non ho capito il senso. La gente che si trovava, con cui potevi parlare normalmente su quei canali. Non mi sono mai appassionato a queste discussioni, le trovavo... Cioè, era divertente il mezzo, però trovavo quasi sempre insignificanti le interazioni, a differenza della parte telematica, che invece stava crescendo sempre di più, forse anche per quello che... Sì, sì. Il problema era che la parte per me anche così, anche così per un po' per me. Ho detto io prima che si parlava praticamente quasi solo di chi ce l'aveva più lungo il dipolo. Era molto diversa poi la telematica. Infatti io prima vi ho detto, in quello stesso periodo iniziava Fidonet, la socialità, cioè, sta cosa succedeva in tutte le situazioni, sì, quello che c'ha la scheda, la Nvidia 3090, quello che c'ha il processore con i controcoglioni, quello che c'ha impianto sul round dell'home cinema che spacca il vicinato di casa, cioè alla fine queste cose in ogni ambiente, quando si nerdizza, quando si estremizza questo tipo di situazioni, succedono in tutte le situazioni, insomma, perché c'erano tutte persone, come hai detto tu prima, Simone, cioè non c'erano donne, era un ambiente che c'erano di erano meglio che non ci stavano, sì, tra esatto era un ambiente un po' di elite, già l'introduzione con due nasi, l'introduzione del videotel o di altri sistemi per comunicare, trovavi persone più comuni, hai capito? Vabbè, sì, oddio, poi, è vero, di Voghera. È vero relativamente anche quello, perché comunque pure lì in chat tu tante volte ti affascinavi a conoscere una persona, poi pure lì venivano i quattro braccia, i sette gambe e i peli sulla fronte, insomma, perché io ribadisco sempre che se uno ha una vita sociale normale, non passa le ore in una chat, insomma, scopri perché si chiamava Bruno di nickname, hai capito lei? Esatto. Simone, io ti posso dire che per esempio ho conosciuto la ragazza più bella che ho mai conosciuto in tutta la mia vita su ICQ. Ma anche a me mi è capitato di conoscere una ragazza molto bella, però era strana, cioè senza una matta. Batta come questo il cavallo, questo sì, però cioè, non si sa bene quanti ne aveva sotto le gambe. Esatto, era meglio non saperlo, perché insomma veramente, cioè, conosciuta una ragazza della bellezza veramente incredibile, con uno sguardo ma era matta come un cavallo, ma proprio, cioè, fuori scala zero, cioè proprio. Però quando tu parli con le persone sembra che c'è una certa situazione, un certo feeling, poi va lì e magari, ma questo succede, allora ragazzi, questo succede sempre in generale, qualsiasi tipo di incontro virtuale o comunque indiretto che si ha con una persona, il filtro fisico che viene completamente eliminato, viene completamente bypassato da quello che è più emotivo, no? E quindi la tua fantasia galoppa molto più di quando poi tu la persona la incontri fisicamente, e quando la incontri fisicamente almeno il 60-70% delle volte è tutto il contrario di quello che ti aspettavi, o non c'è quella scintilla fisica, ma anche anche epidermica, anche semplicemente come amicizia. Non è detto che debba essere solo una questione di attrazione fisica, però magari una persona che a pelle ti sta sul cazzo, quando invece magari quando ci parlavi ci stavi benissimo, cioè nel senso, purtroppo l'unica frontiera è quella della conoscenza diretta, insomma. Ed è per questo che io comunque alla fine le persone mi divertivo, cioè nel senso, magari ci giocherellavo, però non ho mai tenuto mai in considerazione come amicizie, fino a che ovviamente non c'era l'impatto comunque della conoscenza fisica. Scusa Andrea, stavi dicendo? No, che hai perfettamente ragione. Io ho passato praticamente tutta la mia adolescenza, tutto il resto mediata dal calcolatore, per cui tutte le persone le frequentavo, le conoscevo così. Allora, al calcolatore lo diceva mio nonno, però, scusa veramente. Sì, io so, hai ragione. Scusa. Però l'elaboratore elettronico, ecco, bacchetto, perché abbiamo parlato di tantissime cose, ma non abbiamo parlato della croce edilizia di chiunque, radioamatori, CB, appassionati, ovvero lo squelch e il rumore di fondo. Cioè, quello, ragazzi, lo Squelch era... Cioè, io ci ho passato praticamente la mia adolescenza con sta cazzo delle vetta, se sente, non te sente. E soprattutto era il metodo migliore per toglierci dai maroni, quelli sotto, che non volevi sentire. Sì, bello. Il noise gate, diciamo così, cioè, nel senso la... Sì, sì, esatto. Si arriva per abbattere il rumore di fondo che avevi, ma qui arrivava sotto quella soglia e veniva eliminato da te, sì, ovviamente. Sì, è vero. Lo Squelch era... Lo Squelch. Una brutta storia. Vabbè, ragazzi. Cioè, è una brutta parola. Sì, no, esatto, sembra molto squirt. Ti squelcio. Prima di salutarmi, visto che stavi dando... ma tu sei squelcio. Stavi concludendo, volevo solo raccontare una cosa che mi è capitata. Ma non posso concludere, perché se ogni volta che dico che concludo raccontate cose. Eh no, perché aspettavo il mio momento per dirla. Ah, prego. Allora, questo è il tuo momento. È il mio momento, no? L'ascolto che si faceva di queste comunicazioni, io le ho conosciute non personalmente, perché è vero che avevo una radio a casa, ma un giorno sono andato da un mio amico che faceva riparazioni di questi apparati e di tante altre cose, anche di telefonia, di cose curiose, e una sera mi fa sentire appunto le telefonate di qui di là. Poi lui aveva già tutti i suoi puntelli, guarda quest'ora qua chiama questo qui, cioè aveva già tutto un suo programma, no? Quindi si andava colpo sicuro. Ma la cosa più bella, che non è magari molto in focus, ma ve lo voglio raccontare perché è così, lui riparava le segreterie telefoniche e gli arrivavano lì un sacco di segreterie telefoniche. E diceva che la cosa più allucinante, cioè le telefonate che si sentivano non erano niente rispetto ai messaggi che ci sono registrati dentro le segreterie telefoniche. Non faccio fatica a crederci, devo dire. E allora ogni tanto mi faceva sentire, io sento di quelle robe che tu non hai idea. A volte becco le segreterie di gente che parlano ovviamente di cose da suo sfondo sessuale, ma anche segreterie di gente pericolosa, di gente che ha fatto delle cose terrificanti, cioè le segreterie contengono robe più, ancora più di quello che possa essere la telefonia, che poi all'epoca il tax in Italia ce l'avevano solo chi aveva i soldi e non moltissimi, per cui le comunicazioni erano anche ascoltabili. Oggi se tu ti mettessi con una radio di quelle sentiresti un miliardo di persone che parlano, cioè non sarebbe inascoltabile, non sapresti cosa ascoltare. Da lì invece ne sentivi una ogni tanto, di telefonate era ancora fattibile. E niente, mi curiosava aggiungere questo fenomeno, perché comunque lì ho conosciuto l'ascolto organizzato di radio, ma anche nello stesso tempo sono venuto a conoscenza di questa appunto cosa curiosa della segreteria telefonica, che ormai non si sono più e non si riparano più, però a suo tempo, e te le davano così da riparare dimenticandosi le cassette dentro, che dentro c'erano delle registrazioni, e si fidavano insomma di te che ti le riparavi e basta. Mi chiedi il nome di questo, che non si sa mai che gli ho mandato qualcosa a riparare di qualche segreto lì. Dicevo che si fa molto i cazzi suoi, soprattutto. Sì, esatto. Non credo che esista più. Non ripara più niente nessuno. Succedeva la stessa identica cosa, Cioè io quando facevo assistenza informatica anni fa, ma succedeva la stessa cosa: se ti portavano un computer da riparare, nessuno mai si preoccupava di nascondere in qualche modo le cose che c'erano dentro quel computer. È quello che faccio io di lavoro. E io non ti dico che cosa ho trovato dentro il computer. Ma io, guarda, penso una cosa. Io mi immagino sta scena, no? Io mi arriva, sto nel mio laboratorio, prendo la segreteria telefonica, vedo un attimo, insomma, la guardo, la scuoto un pochino per sentire se ci sono pezzi che si muovono, premo play per vedere se funziona e sento: Marco, ho ammazzato Aldo Moro. Truc. E lì a quel punto devi aspettare che arriva il sicario e ti ammazza, perché qualcuno lo sa che tu c'hai una segreteria in mano. Quindi a quel punto cose del genere, insomma. Quindi mi immagino situazioni. Comunque volevo dire, prima di chiudere, volevo dedicare questo mio pensiero a Desiree. Cara Desiree, quando tu parlavi al microfono c'avevi questa voce bellissima, molto melodica, molto femminile, e insomma tutti volevano sentirti parlare al telefono, al microfono, giustamente, perché insomma tutti fantasticavano con la tua voce. Il giorno che ti ho visto ed eri un lottatore di sumo, ci sono veramente rimasto male. E carissimi amici di Runtime Radio, ce ne andiamo a dormire così con Desiree, che era un lottatore di sumo, però gli volevamo tutti quanto tanto tanto bene. E detto questo, ringrazio e saluto per la sua partecipazione speciale straordinaria il nostro carissimo Andrea Trevisan. Ciao Andrea. Grazie. Ciao. Spero che ti sia divertito a stare con questi sgarupati, sdrenati. Ok. E ovviamente di conseguenza saluto anche Davide Gatti. Ecco qua che io sto nell'immaginario di questa Desiree con due nasi. con due panze anche un pochetto. Comunque, cioè, ma che so, le tette? No, è la panza. La panza. Comunque, ma perché abbiamo finito la puntata in un modo così brutto, ragazzi? Io non lo sapevo. Comunque ringraziamo Davide Gatti, ricordate Survival Hacking, andate, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate tutti i video e condivideteli, fate like, perché deve arrivare a 20.000 entro agosto. Entro agosto, va bene. Bene, ok. E ringrazio e saluto anche Roberto Tomaiuolo. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Brecco al canale per sempre. Esatto, brecco al canale forever. E ringrazio forever un raffreddatissimo, come ti chiami? Ah, Carlo Sant'Agostino. Come ti chiami? Sì, va bene. Vengo a prenderti, no, faccio come il camionista. Ho visto l'antenna, ho visto dove c'hai l'antenna. Esatto, ti vengo a sconocchiare, bravo. Ti vengo a riprendere. Desiree, scusa, non ho capito, era un lottatore di sumo? No, era una lottatrice di sumo, sì. Ah, bello. Ora dai. Se poteva fare, certo. Era una donna. Che culo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.